Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo della cassa integrazione e quindi, dopo l'incontro tra governo e sindacati di ieri, che cosa sta avvenendo. Parleremo anche chiaramente della vicenda Whirlpool, già hanno fatto riferimento i nostri GR24, purtroppo nulla di fatto sul tentativo di bloccare la decisione della multinazionale Whirlpool, ma parleremo anche come tema d'attualità dell'andamento, si chiama anche tiraggio in qualche modo, dei prestiti alle imprese. E qui mi riferisco non solo quelli a 30.000 euro, ma anche quelli fino a 30.000 euro garantiti al 100%, a patto che sia il 25% del fatturato del 2019 per 6 anni, ma anche a quelli di ammontare più alto, cioè fino a 5 milioni, perché poi i prestiti possono essere fino a 800.000 euro garantiti al 90% dello Stato e 10% dai Confidi, e poi il 90% è la garanzia con tetto a 5 milioni. Perché ne parleremo? Per fare il punto su come stanno procedendo le richieste, ma Elabi ha segnalato che a ieri i finanziamenti richiesti dalle imprese hanno toccato, e continuano chiaramente a aumentare, i finanziamenti richiesti, dicevo, hanno toccato, superato i 94 miliardi di euro per 1.184.000 domande, di cui 950.000, quindi come sempre la stragrande maggioranza, fino a 30.000 euro per 18 miliardi e mezzo. Lì si tratta di capire se c'è un problema di cassa o se invece, diciamo, non esiste un problema di cassa sui fondi di garanzia, o meglio sui fondi che hanno i prestiti, che hanno la garanzia dello Stato, o totale o, diciamo, parziale. Torna anche l'appuntamento oggi con Imprese Vincenti, e quindi continua il viaggio che Radio 24 sta compiendo assieme all'Intesa San Paolo lungo la penisola italiana. Questa settimana è un tour digitale, chiaramente ha fatto tappa a Brescia e a Padova. Visto che siamo in apertura di programma, diamo anche subito i mercati finanziari. Oggi sono poco mosse tutte le borse, è invariata Parigi, meno 0,22 Francoforte, Londra invariata, Dow Jones invariato, Milano non fa eccezione, meno 0,12%. Segnalo tre titoli: Pirelli più 2,90%, Fiat Chrysler più 2,5%, Exor più 1,90%, Campari più 1,70%, il Banco BPM guadagna lo 0,80%, come Ferrari. Il fronte opposto vede invece cedere Biberbanca meno 2,70, Telecom meno 2,30, Interpump meno 2, Unipol meno 1,5 come Diasorin, l'1% lo perde Buzioni, Ceme, Azimut, ma anche Steamark Electronics e Banca Generali e Moncler. Euro su dollaro a quota 1,18. Come sempre 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, e come sempre adesso partiamo dalle notizie in breve e da quelle di carattere internazionale. Già i nostri GR24 vi hanno aggiornato sulla situazione Covid Europa, e la Germania che ha visto un'esplosione a quasi 12.000 casi, 11.300 casi di contagio, la Francia che va verso un coprifuoco in altri 20 dipartimenti, sappiamo che ci sono città come Parigi, Lione, Marsiglia che sono già in coprifuoco. In questo momento in Francia più o meno sono 20 milioni di persone, su quasi un terzo della popolazione in coprifuoco. Il premier francese ha detto che dovrebbe iniziare tra pochi minuti la conferenza stampa, farà un punto sull'applicazione, e a 6 giorni dal coprifuoco che ha riguardato appunto le principali città francesi, l'ipotesi di estenderlo ad altri 20 dipartimenti, mentre la Polonia ha annunciato che va verso il lockdown da sabato. E chiaramente la situazione è una situazione in evoluzione e non positiva in tutta Europa. È tornata a calare a ottobre la fiducia dei consumatori, non in maniera drammatica, però ha perso un punto e mezzo sia nella zona euro che nell'euro 27. Nel frattempo si calcola, lo ha calcolato Eurostat, che i deficit dei paesi dell'area euro stiano toccando un nuovo record. Mancano i dati di alcuni paesi, tra cui l'Italia, però la media dei dati presenti è di un deficit dei paesi all'11,6%, l'Austria meno 17%, cioè un deficit del 17%, Slovenia rispetto al PIL meno 15%, Belgio 14%. E poi non è polemica, ma insomma ci sono alcuni dubbi, alcune fonti europee che hanno ribadito che c'è un ritardo nell'erogazione del Recovery Fund e quindi è difficile che possa essere erogato dal 1 gennaio, così come anche il bilancio europeo sarà ritardato, e quindi sostengono fonti del Parlamento europeo che occorre aggiungere almeno 2 mesi e mezzo per la procedura delle ratifiche al momento dell'accordo. Fonti del Parlamento europeo dicono: siamo contenti che anche la presidenza tedesca si stia accorgendo che potrebbero verificarsi ritardi. Nel frattempo però Ursula von der Leyen ha annunciato che Italia, Spagna e Polonia saranno i primi paesi a ricevere i fondi SURE. I fondi SURE sono una delle 4 gambe del tavolo dei provvedimenti europei, riguardano le politiche di welfare, quindi per noi anche i soldi per la cassa integrazione, quindi per sostenere il mercato del lavoro. Faccio notare che martedì la Commissione europea, perché anche questi sono fondi che vanno raccolti sul mercato, ha emesso i primi 2 prestiti obbligazionari. La risposta, i 2 prestiti erano uno di 10 a durata decennale e l'altra ventennale, è stata senza precedenti, nel senso che da 1.000 investitori sono arrivati ordini per 233 miliardi. Questo ha permesso a Bruxelles di aumentare l'importo delle 2 obbligazioni a 17 miliardi. Chiaro che sono solo le prime delle 2 obbligazioni europee. All'Italia complessivamente è stata destinata la quota più consistente, cioè 27 miliardi e mezzo, complessivamente, non che ci arrivino tutti subito. Ad agosto il ministro Gualtieri aveva calcolato che avendo un prestito, anche SURE, un prestito particolarmente favorevole, permetterà un risparmio sugli interessi sul debito calcolato in 15 anni a 5 miliardi e mezzo. Adesso, visto che i tassi sono più bassi, probabilmente questa soglia si abbasserà, così come il risparmio calcolato sul famoso MES era di circa 500 milioni all'anno come interessi più bassi, visto che gli interessi sono lo 0,08% sui 10 anni. Se invece il MES viene ripagato nei primi 6 anni gli interessi sono negativi. Beh, dicevo, su questo il risparmio del MES è sceso, visto l'andamento dei tassi, a 300 milioni contro i 500 milioni stimati qualche mese fa. Se dovessimo attivare il MES, lo SURE l'abbiamo chiesto per certo. Oggi il Tesoro ha collocato un BTP a 30 anni, la domanda va oltre i 90 miliardi, ottima la domanda, 8 miliardi la taglia fissata e il rendimento è all'1,7% lordo. La scadenza va a settembre 2050, 1,76% per la precisione. E quindi a segnalare comunque che grazie alla Banca Centrale Europea i tassi di interesse delle obbligazioni italiane restano a livelli bassi, bassissimi. Per quello che riguarda l'Italia invece, dai consulenti del lavoro oggi arriva una stima su quanti potrebbero essere i posti di lavoro persi nel 2020 nelle piccole e medie imprese come conseguenza della crisi Covid. Si stima 1 milione di occupati in meno, la seconda ondata del virus potrebbe danneggiare ulteriormente il nostro sistema produttivo, perché secondo un'indagine dei consulenti del lavoro 4 imprese su 10 sono ancora poco attrezzate per gestire il personale in caso di contagi diretti o indiretti. Veniamo invece alla posizione delle regioni. Ora vedo che la Sardegna sta valutando un lockdown, attesa un'ordinanza nel weekend. Qui bisogna capire cosa vuol dire uno stop di 15 giorni per le principali attività con chiusura di porti e aeroporti. De Luca, governatore della Campania, ha confermato obbligo di chiusura dal 23 ottobre al 13 novembre tutte le attività commerciali, ricreative, sociali dalle 23 alle 5. Questo è più un coprifuoco che un lockdown. E con l'autocertificazione che scatta in Lombardia da stasera dalle 23 alle 5, il Lazio invece scatterà da venerdì, cioè da domani, dalle 24 alle 5. E tornerà appunto anche in Lazio l'autocertificazione. Poi c'è tutto il tema della scuola a distanza, della didattica a distanza per le superiori. Allora, la Basilicata ha annunciato che almeno il 50% degli studenti delle superiori sarà interessato alla didattica a distanza. In Puglia da lunedì si bloccano la didattica, cioè la didattica sulla distanza per gli ultimi tre anni delle scuole secondarie, delle scuole superiori, come si chiamavano una volta. Il ministro Azzolini ha scritto a De Luca chiedendo che ripristini, oltre che elementari, anche le scuole medie inferiori come presenza in classe, e che si alterni, che sia integrata la didattica a distanza insieme a quella in presenza. L'Azzolini ha scritto anche a Fontana, quindi al presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, dicendo, invitandolo a trovare altre soluzioni invece che il blocco della didattica in presenza di tutte le scuole superiori a partire dal primo anno, garantisca il diritto all'istruzione. Fontana ha risposto, diciamo, i provvedimenti servono, ma il ministro Azzolina può impugnarli. Ribadiamo come regione che i provvedimenti sono necessari perché sono necessarie decisioni stringenti, visti e considerati i dati relativi alla curva epidemiologica della Lombardia correlati alla situazione del sistema del trasporto pubblico locale. E il sindaco Sala ha detto: noi sindaci siamo totalmente contrari alla sola didattica a distanza per le superiori. Non ha senso in questo momento, bisogna alternare didattica in presenza a distanza. Ora, adesso ascoltiamo Sala, però a me sembra una cosa molto chiara, che siccome le regioni e anche gli enti locali non sono riusciti in questi mesi, adesso vedo che finalmente partono i pullman turistici, gli autobus, i pullman privati, che sono sostanzialmente largamente inutilizzati a Roma come aiuto al trasporto locale, però io dico, siccome le regioni non sono riuscite in questi mesi a approntare un piano sul trasporto locale, anche ricorrendo a un po' di fantasia, appunto abbiamo raccontato di 20.000 pullman fermi in Italia perché non ci sono i turisti, non ci sono le gite, non c'è nulla, la soluzione che si trova è la didattica a distanza, che va benissimo, per carità, cioè non sto dicendo che sia sempre sbagliata, dico solo che mi sarebbe piaciuto vedere uno sforzo delle regioni Lombardia, ma non solo, perché non stiamo parlando solo della Lombardia, importante sui trasporto locale e anche quello che di pertinenza comunale, per poi vedere che nonostante tutto consigli la didattica a distanza. È troppo comodo, a mio avviso, dire vabbè, siccome il trasporto è affollato andiamo direttamente con la didattica a distanza dopo poche settimane dalla riapertura delle superiori. Comunque sentiamo Sala sull'ordinanza della regione. Nell'ordinanza firmata ieri dal presidente Fontana c'è un punto che non convince noi sindaci dei capoluoghi di provincia, e guardate, non è una questione politica, è sindaci di centro-sinistra o di centro-destra, ma il punto è quello relativo appunto alle attività scolastiche, e dice: le scuole secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni per l'intero gruppo classe. Ora, è vero che noi ci eravamo incontrati con il presidente Fontana, ma di questo punto non si era discusso, siamo contrari, siamo favorevoli all'alternanza presenza e didattica a distanza, ma oggi sarebbe una cosa a nostro avviso sbagliato, anche una sconfitta, tornare immediatamente in didattica a distanza per le scuole superiori. Il nostro obiettivo è cancellare questa misura e poi vedremo, perché qui non si può fare altro che veramente vedere la situazione passo per passo. E sempre sul tema della didattica a distanza, perché riguarda anche Piemonte e Liguria, una quota non inferiore al 50% delle tutte le classi superiori. La nostra Cristina Carpinelli ha raggiunto il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli. Io trovo criticabile una decisione che pretende di imporre a tutte le scuole di tutte le realtà molto diverse tra loro dello stesso territorio, in questo caso quello della Regione Lombardia, lo stesso tipo di comportamento e lo stesso tipo di organizzazione. Perché abbiamo un'autonomia scolastica, peraltro ricordo tutelata dalla Costituzione? Perché è soltanto la singola scuola che può valutare al meglio quelle che sono le esigenze del suo bacino di utenza. Peraltro il provvedimento è un provvedimento così che punta a far circolare meno persone, indubbiamente, lo fa chiudendo dei luoghi in cui tutto sommato il contagio non si diffonde. La scuola ha lavorato tantissimo per ripartire, infatti la domanda che io pongo e che purtroppo rimane senza risposta è che cosa ha fatto il sistema di trasporti locali. A fronte di un sistema scuola che si è impegnato tantissimo, ha lavorato tanto, i colleghi hanno lavorato tantissimo, hanno sacrificato le ferie per consentire ai ragazzi di tornare in presenza, e invece registro che sul fronte dei trasporti locali non si è acquistato nemmeno un autobus. No, ma io sono d'accordissimo, io capisco che acquistare un autobus non sia facile, si poteva segnalare la cosa a giugno, a luglio, si poteva dire guardate che con queste gare di carattere europeo i tempi sono lunghi, prendiamo qualcosa in affitto, non lo so, non faccio io l'assessore ai trasporti né a livello comunale né a livello regionale. Quello che noto però è che è vero che noi eravamo tutti concentrati sulla scuola e devo dire lo sforzo c'è stato da parte del corpo anche docenti e anche con un po' di fantasia da parte dei presidi. Mi sarebbe piaciuto vedere quantomeno un allarme, diciamo così, e dire guardate che non ci siamo sul trasporto locale. Invece con la storia che tutti ci siamo rilassati e anche gli amministratori siamo arrivati alla soluzione che siccome non si riescono a gestire i trasporti locali i ragazzi stanno a casa con buona pace dei genitori, della didattica e di quant'altro. Allora ci sono i nuovi casi, purtroppo, dico purtroppo perché i numeri non sono bellissimi, adesso li leggo, li guardo assieme a voi perché le agenzie li hanno appena battuti. Allora, contagi in aumento perché sono 16.000, però 1.000 più di ieri appunto. 16.079, però ci sono 7.500 tamponi in meno, sono sempre molto alti i tamponi, 170.000, ma ieri erano 177. Sale purtroppo anche il numero delle vittime a 136, ieri erano state 127, il totale ormai è a 37.000. Vediamo i dati clinici, a parte le vittime, appunto sapete che cerchiamo di guardare, scusate, sempre i dati anche clinici, non solo il numero di contagiati. Dicevo, le vittime 136, la pressione sulle strutture ospedaliere cresce, i ricoverati in terapia intensiva sono 66 in più rispetto a ieri, sono 992, quelli ricoverati con sintomi sono 637 in più, 9.694, e 13.000 in più in isolamento domiciliare. Dicevo che come ogni settimana, torna anche l'appuntamento con Imprese Vincenti, il viaggio che Radio 24 sta compiendo con Intesa San Paolo per valorizzare le piccole e medie imprese italiane. 4.000 imprese che si sono autocandidate, ne abbiamo selezionate 144 perché possono rappresentare anche un modello per i settori in cui operano rispetto ad altre imprese. Il tour ha fatto tappa questa settimana a Brescia e a Padova, anche per tratteggiare, come sempre ne approfittiamo anche per raccontare come stanno reagendo i territori di impresa, e come sempre dicevo il viaggio lo segue il nostro Andrea Ferro. Filiere e innovazione sono i punti cardinali sui quali, in un tempo di incertezza, si orienta il tessuto economico e produttivo dello spicchio più intraprendente del triangolo industriale del Nord-Est. Qui, tra Brescia e Padova, ha fatto tappa il Digital Tour di Imprese Vincenti, l'iniziativa promossa da Intesa San Paolo per valorizzare le piccole e medie imprese. Le filiere, si diceva, peculiarità tipica della provincia di Brescia, un valore aggiunto che va a combinarsi con innovazione, digitalizzazione, sostenibilità. Ne abbiamo parlato con Pierluigi Cordua, presidente di App Industria Brescia. A Brescia la catena, le distanze di fornitura per esempio sono molto molto brevi, si parla di 48 km circa contro i 100 km di distanza che per esempio sono tipici di altre aree d'Italia. Quindi rivalutare le filiere, concentrarsi sul territorio nazionale ma addirittura anche locale per cercare di creare il più possibile sinergie. E poi ci sono i grandi temi che sono legati ai piani che si stanno sviluppando, Recovery Fund, quindi digitalizzazione, sostenibilità, il Green Deal. Queste sono le grandi occasioni che si potranno manifestare nel futuro. Chiaramente in questo periodo, per esempio, c'è anche un discorso di liquidità, di possibilità di approvvigionarsi di risorse finanziarie a tassi di interessi particolarmente favorevoli, per cui sempre nell'ottica di guardare quello che succederà è anche il momento per esempio di investire. È un momento particolare, incerto si diceva, ma tra le caratteristiche delle piccole e medie imprese c'è proprio la capacità di adattarsi ai tempi, alle situazioni. Il tessuto imprenditoriale, quindi quello della piccola e media impresa bresciana, è estremamente reattivo, è un tessuto forte. E poi non dimentichiamoci che la piccola e media industria per definizione è molto flessibile, quindi estremamente reattiva ai cambiamenti, e questo è sicuramente un bene. Si tratta magari appunto di cambiare, cioè rimettere dei nuovi modelli di produzione appunto sulle filiere del territorio, per esempio, che possono risultare in questo caso delle occasioni anche vincenti per il futuro. Ora, tre testimonianze di impresa, Automazioni Industriali, con sede a Nave, una decina di chilometri da Brescia, è un'azienda che da anni registra tassi di crescita costanti in termini di fatturato e di dipendenti. Giuliano Baglioni è il presidente. La nostra azienda si occupa di produzione di impianti robotizzati per l'asservimento di macchine utensili, presse per lo stampaggio, lavorazioni delle materie plastiche, quello che è l'handling in generale, e quindi ci occupiamo di alta tecnologia. Tanto che sviluppiamo all'interno anche evoluti sistemi molto sofisticati per la visione artificiale e per guidare i robot alla presa casuale di oggetti nello spazio. Sono sistemi che vanno a risolvere problematiche molto specifiche dei nostri clienti. L'ambito in cui spaziamo è quello automotive, il valvolame, la rubinetteria in genere. La percentuale di esportazione di automazioni industriali indicativamente nell'ordine del 70%. Le prospettive noi le vediamo buone. La cosa molto molto positiva è che abbiamo cominciato a ricevere conferme di ordini che avevamo aperto su offerte soprattutto straniere, e abbiamo un buon 30% dell'inizio dell'anno 2021 già ampiamente coperto. A Villa Bartolomea, in provincia di Verona, c'è lo stabilimento di Industrial Technics, altra impresa che fa dell'innovazione il suo core business, impresa che esporta il 90% della produzione, come ci racconta Oriella Antole, responsabile dell'ufficio acquisti. L'azienda Industrial Technics è stata fondata nel 1978 per una forte passione della meccanica di precisione, quindi meccanica di precisione e componenti industriali su commessa del cliente. È un punto di forza e continuo rinnovo per lo sviluppo della alta tecnologia, e quindi questo può essere anche un impegno continuo per un partner strategico che può essere il cliente. Mercati più interessanti per noi è tutta l'Europa sicuramente, di cui la Germania e il Belgio prevalgono, poi seguiti in altra percentuale un po' più bassa dalla Finlandia, la Svizzera, la Danimarca, l'Olanda, l'extra c'è pure. Ora in provincia di Treviso, ad Altivole, ha sede Gaber, azienda specializzata in complementi d'arredo totalmente made in Italy, commercializzati in 80 paesi. Stefania Gallina è la responsabile marketing. Noi nasciamo con prodotti totalmente in materiale plastico. La nostra idea 20 anni fa era quella di creare un prodotto resistente all'esterno, che fosse smontabile, facilmente esportabile in tutto il mondo, però poi ci mettiamo vicino quello che può essere il metallo, il legno, i tessuti di diversa natura, dalle coppelle fino appunto ai tessuti estetici decorativi. Uniamo quello che è il design con l'innovazione e la funzionalità. È stata fatta una fusione con un'azienda sempre nostra, del nostro gruppo, per dare ancora più importanza a quello che è questa attività. Gaber è nata da un sogno, quello di creare un proprio prodotto, e quasi non ci credevamo. Bene, grazie ad Andrea Ferro, che ritroveremo la prossima settimana per un'altra puntata del Viaggio in Italia di Imprese Vincenti. Vedo che molti mi stanno scrivendo, ma insomma sul tema degli studenti, ci sono bar, mercati pieni di anziani tutto il giorno e si tengono gli studenti a casa. Guardate, a me sembra chiaro che il problema non sia il fatto che gli studenti girino troppo, è che gli autobus e le metropolitane sono affollate. Mentre gli anziani tendono a non avere un orario di ingresso e di uscita così rigido. Dopodiché io spero che sia passato alla comunità anziana di questo paese, cioè un messaggio molto chiaro, che non è che si possa, nessuno ha ipotizzato di limitare in base all'età, cioè dai 65 anni non esci più, che discorsi, se non per fare la spesa. Però io mi aspetto che proprio le categorie più a rischio escano il meno possibile e con tutti gli strumenti di protezione del caso. Non sempre li vedo, però mi sembra, non voglio neanche essere troppo negativo oggi, non ho voglia. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dico a tutti quelli che mi dicono non si vede ancora un effetto, guardate che stando a quello che hanno sempre raccontato medici e virologi, l'effetto di delle restrizioni che sono iniziate la settimana scorsa con le chiusure a mezzanotte e alle 21 per chi non è a sedere, lo si vedrà fra un paio di settimane, e anche l'effetto del lockdown, del coprifuoco in Lombardia, in Lazio, in Campania, lo si vedrà tra un paio di settimane, visto diciamo, quello che ci hanno sempre spiegato tutti, cioè il tempo di incubazione per avere poi un effetto. Quindi è inutile chiedere adesso un effetto. Comunque andiamo sul metodo pubblicità. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, come vanno i prestiti alle imprese? Sappiamo intanto vanno in crescita, come ricordavo in apertura, hanno superato quel fondo di garanzia sostanzialmente 94 miliardi e mezzo, ripeto, per 1.184.000 domande, di cui la stragrande maggioranza 950.000 fino a 30.000 euro. Per 18,6 miliardi di euro. Il restante, e quindi gli altri quasi 78 miliardi, sono andati invece per domande minori, per la fetta che va invece dai 500 mila euro in su. quindi prestiti fino a 800.000, 90% garanzia dello Stato, 10% dei confidi e il 90% del restante fino a 5 milioni. Poi per i prestiti più alti invece entra in gioco la garanzia SACE da questo punto di vista. Allora, il tema è capire non tanto come vanno i prestiti, perché mi sembra che la domanda ci sia e resti, ma se i fondi, la dico male ma per farmi capire, se c'è un problema di finanziamento e rifinanziamento di questo fondo. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento Gaetano Stio, che è presidente del gruppo NSA, già nostro ospite altre volte, perché è il primo mediatore creditizio per imprese italiane per fatturato. Stio, buonasera. Buonasera Parigioni. Dunque, al di là, insomma, della richiesta, che mi sembra che stia andando bene, ho capito, ma inizia a esserci, non vogliamo creare nessun allarmismo, ma qualche dubbio, diciamo, sulla disponibilità di questi fondi. Ma allora, in questo momento sono per ora voci di corridoio, anche se hanno scatenato un pochettino di interesse. Abbiamo visto gli articoli sia di Ursino che di Fotina di oggi. Sì, sul Sole di oggi, certo. Il discorso è questo, il discorso è che l'anno prossimo le disponibilità ci devono essere per forza, perché dobbiamo immaginare che l'anno prossimo le banche devono deliberare finanziamenti per le imprese, che siano partite IVA per i finanziamenti fino a 30.000, oltre 30.000 per le PMI, ma li devono deliberare sui bilanci del 2020, che sicuramente sono peggiori di quelli del 2019, quindi non possiamo neanche minimamente immaginare che l'anno prossimo il fondo di garanzia non sia quello che è oggi. Perché è giusto quello che lei diceva prima, che le domande sono tante, però andando a spacchettarle ne abbiamo 225.000 circa, oltre i 30.000 euro che possiamo ipotizzare siano stati fatti da PMI, e poi abbiamo le famose 950.000 che lei diceva prima, sono quelli fino a 30.000 euro, e lì probabilmente hanno attinto le partite IVA, il piccolo bar, il piccolo commerciante, sì, certo, il piccolo ristorante. Però dobbiamo ricordarci che le PMI in Italia sono 5 milioni. Il che significa che se sono stati erogati 225.000 finanziamenti, siamo andati a colpire il 4,5% degli aventi diritto, mentre sulle partite IVA, che sono circa 8 milioni, siamo all'11-12%. Ma le partite IVA, quei famosi 950.000 domande che lei citava prima, cubano 20 miliardi, come diceva lei. Il resto degli 80 sono stati dati a piccole e medie imprese e alle mid-cap, a cui è stato aperto il fondo di garanzia. Mi scusi, mi faccia capire, lei sta dicendo che il problema è più sui prestiti da 30.000 a 800.000? Sì, in realtà se quello che... Che sono chiaramente minori numericamente, ma hanno un valore più alto economicamente. Hanno un volume molto più importante per le banche, ovviamente, man mano che aumenta il volume aumenta il rischio. Poi dobbiamo anche tenere in considerazione che l'anno prossimo ci saranno nuovi degli affidamenti, tra un po' finiranno le moratorie. Insomma, sono tante le cose che stanno per succedere, quindi non si può nemmeno immaginare minimamente che il fondo di garanzia nel 2021, sia diverso dal 2020, o come ho letto nell'articolo di Fotina, si possa ipotizzare che rimanga così com'è solo per le operazioni fino a 30.000 euro, perché le operazioni fino a 30.000 euro hanno fatto poco e niente. Poi bisogna tenere anche in considerazione che lo strumento, così come è stato progettato quest'anno... Beh, oddio, hanno fatto poco e niente, un attimo, hanno fatto poco e niente, sono state molto importanti per una platea enorme di persone, perché appunto stiamo parlando di quasi 1 milione di partite IVA, lei dice, pesano poco e niente come ammontare complessivo, perché sono 18 miliardi su 90? Sì, poi non sono la spina dorsale dell'economia, sono le imprese un po' più strutturate, che sono le PMI, e giustamente, come ha detto il governo, anche le mid-cap, che hanno fatto tante domande. Però bisogna tenerle in considerazione questa cosa, non si può alimentare, non si può pensare che il sistema economico, con un PIL che probabilmente perderà il 10% quest'anno, sia sostenuto dal fondo di garanzia solo per le operazioni fino a 30.000. Secondo me è veramente... Questo è chiaro, ma il timore, perché ho visto anche notizie di carattere europeo, sì, nel senso che da questo punto di vista si sta ragionando del il quadro, quello che si chiama temporary framework, sì, europeo, sì, cioè il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, che consentirebbe di allungare sostanzialmente fino al 30 giugno le garanzie speciali sui prestiti, quelle varate appunto dal DL Liquidità, che attualmente sono in vigore fino al 31 dicembre. E quindi l'Europa, diciamo, da questo punto di vista darebbe una mano, allungando almeno il periodo. Il problema qual è allora, Stio? Allora, il problema è sono gli stanziamenti. Cioè, allora, qui ci sono stati fatti, come scriveva giustamente Ursino, è stato fatto uno stanziamento iniziale, che è quello del decreto Cura Italia e poi liquidità, di 5,8 miliardi. È dovuta intervenire la CDP acquistando dal fondo di garanzia, facendo controgarantie per il fondo di garanzia, per liberare un po' di risorse e andare avanti fino alla fine dell'anno. Ma gli stanziamenti che sono stati fatti, quei 7 miliardi che sono indicati nell'articolo di Ursino, sono 23, 24, 25. Il che significa che sono stati messi non a copertura del rischio dell'anno prossimo, ma molto probabilmente per pagare le prime escussioni che probabilmente arriveranno tra la fine del 22 e l'inizio del 23, perché finisce il periodo di preammortamento dei finanziamenti che abbiamo fatto. Ma è giusto quello che diceva lei? Cioè, se l'Unione Europea ha deciso di prorogare il temporary framework, cioè dobbiamo andare dietro proprio diretti senza neanche pensarci. Va bene sottolineare, ripeto, oggi sono un articolo che sia di Fotidina, appunto, su 24 ore. Va bene ricordare che essere, non essere, questo è il problema. Cosa andare a vedere nel weekend? Cosa arriva nella nostra città? No, presidente, l'ave non sarà mai che i miei figli. Io lascio l'oltraggio dei miei nemici. Quali sono le prime più importanti? Siamo qua in cerca d'un autore. Cartellone, il rotocalco settimanale sul teatro, seleziona gli spettacoli migliori con interviste ad attori e registi. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.15 su Radio 24, oppure mi potete riascoltare su podcast, una tournée radiofonica per sognare in tutti i teatri d'Italia. Allora, scusatemi, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, è entrato un audio come sentite. Andiamo avanti, stavo salutando chiaramente il dottor Stio, perché ribadisco, l'invito è assolutamente corretto, il governo non perda tempo, visto che c'è un'apertura, diciamo, di Bruxelles su questo, nel aumentare appunto il tempo di durata di questi strumenti. Per quello che riguarda invece, vedo altre domande su questo, adesso vedremo, non è stato ancora deciso nulla, ma è giusto, come ha fatto anche sulle 24 ore, porre l'accento sulla necessità di non farsi trovare all'ultimo sul rifinanziamento dei prestiti, soprattutto per le piccole e medie imprese. L'altro tema che agita il governo, diciamo, o comunque che rappresenta una scadenza, è il tema dei licenziamenti, perché ieri si è tenuto l'incontro tra governo e sindacati per valutare la proroga del blocco dei licenziamenti della cassa integrazione. Dunque, le proposte sono state una proroga di 6 settimane della cassa integrazione Covid per le imprese, che a metà novembre avranno esaurito le 18 settimane della CIG di agosto e avranno così la copertura fino a fine d'anno. E il costo dovrà essere coperto con un decreto ad hoc dal valore di circa 1 miliardo. Questo, se ho ben capito, andrebbe in aggiunta alle 12 settimane di cassa Covid per il 2021 coperte dai 5 miliardi della manovra, che è gratuita per le imprese con una perdita di fatturato del 20% nei primi tre trimestri dell'anno rispetto al 2019, con la disponibilità a posticipare la fine del blocco dei licenziamenti al 31 dicembre, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021. Proposte giudicate insufficienti dai sindacati e quindi un nulla di fatto su questo. È chiaro che giro la domanda a Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore. Giorgio, buonasera. Buonasera a voi. Allora, è chiaro che qui da un lato si cerca, se ho ben capito, per sintetizzare il più possibile, si cerca di andare verso una cassa integrazione più selettiva, anche per evitare una distorsione completa del mercato, perché sappiamo che bloccare in questo caso qualunque tipo di licenziamento non permette neanche le ristrutturazioni aziendali, ma allo stesso tempo non si vuole evitare un'ondata di licenziamenti proprio nel momento in cui tornano, per quanto mirati e per quanto non così duri come quelli di marzo-aprile, tornano delle forme di lockdown o di coprifuoco e di chiusura, penso soprattutto agli esercizi commerciali. Qual è la distanza, Giorgio, tra sindacati industriali e governo? Sarà difficile trovare una soluzione, perché ci sono posizioni effettivamente differenti. Da un lato le imprese, appunto, che dicono: noi siamo disposti a pagarci la cassa integrazione, però se abbiamo bisogno lasciateci licenziare, perché dobbiamo anche fare ristrutturazioni, dobbiamo, qui si è bloccato anche il turnover aziendale. Tenete conto che appunto il blocco dei licenziamenti è in vigore dallo scorso 17 marzo, del blocco dei licenziamenti collettivi e poi individuali per ragioni economiche. Quindi questo è, diciamo, il punto di vista delle imprese. Dall'altra parte ci sono i sindacati che sono preoccupati appunto delle conseguenze di questa possibile seconda ondata e chiedono di continuare a collegare il blocco dei licenziamenti alla cassa Covid. La cassa Covid, che come ricordavi te verrà prorogata dal governo quest'anno per le imprese che la finiscono a novembre fino alla fine dell'anno, e poi per 12 settimane per appunto il prossimo anno. Attenzione però, queste 12 settimane possono essere utilizzate teoricamente in via continuativa, ma se non viene indicata una data di scadenza ci può anche essere un meccanismo di stop and go, quindi in realtà possono essere spalmate su un periodo più lungo. Quindi sostanzialmente la proposta del sindacato di collegare il blocco di licenziamenti all'utilizzo della cassa Covid potrebbe addirittura andare ben oltre marzo, insomma estendersi fino a giugno. Quindi qui c'è un problema, se vogliamo, di ordine anche costituzionale, nel senso che appunto, il blocco di licenziamenti è a rischio anche di ricorsi costituzionali, nel senso che, come dire, dal punto di vista, ho parlato anche con costituzionalisti, insomma, oltre che lavoristi, diciamo, i blocchi hanno, diciamo, una giustificazione se sono temporanei, ma se, peraltro non abbiamo notizie di altre di paesi che hanno fatto appunto misure così drastiche, insomma, come il nostro, ma se protratti poi così a lungo nel tempo hanno, diciamo, un effetto anche, se vogliamo, deleterio poi anche sull'economia. È vero che se andiamo a vedere i dati Istat, INPS anche di oggi, certamente hanno avuto un impatto, perché ci sono stati meno licenziamenti rispetto allo scorso anno. Sì, tra l'altro a settembre l'INPS oggi ha comunicato che sono state autorizzate 254 milioni di euro di cassa integrazione. La cosa importante è il raffronto con lo stesso periodo di un anno fa, è il 1215% in più, è un 13% in meno rispetto ad agosto, quindi non è un incremento costante, però voglio dire, stiamo parlando del 1200% di cassa integrazione in più rispetto a settembre. Ma ti ho interrotto, Giorgio. Sì, no, il problema a questo punto è di ordine sia tecnico che politico, nel senso che i sindacati adesso chiedono di essere convocati da Conte, cioè chiedono sia Conte a prendere la situazione in mano. E bisogna vedere, appunto, perché tenete conto che il 5 novembre già è in calendario lo sciopero dei metalmeccanici. E bisogna vedere se appunto poi se non avranno risposte, diciamo, che considerano sufficienti dal governo, che tipo di iniziative potrebbero prendere, insomma, i sindacati confederali. E sicuramente, diciamo, questo è un governo che come dire, è difficile che possa essere, visto che dentro, diciamo, l'azionista di maggioranza che è appunto il PD, che possa essere più di tanto sordo, no, alle richieste dei sindacati. Però al tempo stesso c'è anche da dire che diciamo con il diritto non è che si può litigare più di tanto, per cui bisogna anche trovare una quadra che abbia, perché poi anche il Presidente della Repubblica, anche dal Quirinale, qualche obiezione potrà arrivare poi se si esatto. Procede. Allora, Giorgio resta con noi, perché adesso oggi GR 24 e poi vorrei ascoltare invece dopo il GR Conte sui soldi per rifinanziare la cassa integrazione. Vorrei capire quanto potrebbero bastare questi soldi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul GR. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti mercoledì. Parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Vorrei concludere l'approfondimento sul tema della cassa integrazione con Giorgio. Attenzione, perché vorrei però mandare anche, ecco che adesso lo vedo, il file, quindi l'audio, caro Giorgio Pogliotti, di Conte, perché c'è un tema, fermo restando che abbiamo capito che le posizioni sono ancora molto distanti, c'è un elemento anche, potrebbe esservi, di carattere costituzionale. C'è il tema delle risorse, un po' come affrontavamo prima sui fondi, i prestiti alle imprese. Allora sentiamo Conte che ha detto oggi: rifinanzieremo con 5 miliardi la cassa integrazione. Rifinanziamo con 5 miliardi di euro un ulteriore ciclo della cassa integrazione, prevedendo la gratuità della cassa integrazione per le imprese che hanno registrato perdite oltre una soglia predeterminata. Allo stesso scopo viene estesa la durata della moratoria sui mutui, viene rifinanziato il Fondo Centrale di Garanzia per erogare prestiti alle piccole e medie imprese, viene anche rafforzato l'intervento di SACE con garanzie pubbliche a sostegno delle medie e delle grandi imprese, viene prorogata l'estensione temporale delle misure di sostegno alla patrimonializzazione piccole e medie imprese all'interno del quadro temporaneo, quello europeo, in materia di aiuti di Stato. Allora Giorgio, tu che sei uno dei massimi esperti anche di cassa integrazione, i 5 miliardi, giusto per far capire anche agli ascoltatori, bastano, sono sufficienti, al di là di poi di quelle che saranno le decisioni prese, diciamo, dal governo? Ma dipende da quello che sarà poi l'utilizzo effettivo. Io guardavo oggi i dati, per esempio, dell'INPS relativi appunto fino ad agosto, periodo tra ebbene, e c'è stato un utilizzo effettivo del 40% delle ore autorizzate. Quindi è evidente che ci saranno sicuramente dei risparmi che all'INPS stanno conteggiando già su appunto i miliardi che sono stati stanziati con i tre decreti. Ma non utilizzati. Che potranno appunto essere utilizzati, per esempio, per le 6 settimane che avranno un costo di circa 1 miliardo per coprire il periodo 2020. Quindi, voglio dire, sui 5 miliardi per le 12 settimane dipende appunto effettivamente dall'utilizzo che ci sarà, dipende dallo scenario che avremo all'inizio di appunto da gennaio. Se proseguirà l'attuale progressiva ripresa di attività allora certamente sarà uno scenario di un certo tipo. Tenete conto appunto che andando a guardare l'andamento della cassa integrazione delle ore autorizzate si assiste, siamo diciamo ben al di sotto dei picchi di aprile e di maggio, erano stati richiesti 871 milioni di ore, ad agosto siamo a 293 milioni, che sono tantissime ore. Per darvi un ordine di riferimento, lo scorso anno noi stavamo a 19 milioni di ore, cioè c'è una enormità. Ecco, poi ovviamente siamo proprio su, anche negli anni peggiori, nel 2009 e nel 2010, eravamo a 1 milione di ore. Qui tra gennaio e agosto siamo arrivati a 3 miliardi, cioè 3 miliardi di ore, gennaio-settembre, 3 sì, miliardi sì. Di ore. Non c'è un precedente. Sì, ma basta anche... non c'è un precedente, e basta anche ricordare il dato di, come facevo nella prima del programma, di settembre, in cui è vero che c'è un calo del 13% rispetto alle ore autorizzate ad agosto, ma le 255 milioni di ore di settembre rappresentano il 1215% in più rispetto a settembre 2019. Quindi È ovvio che siamo alla metà, meno della metà delle ore chieste a marzo e aprile, ma siamo ancora a un livello che è appunto del 1200% più alto rispetto all'anno precedente. E questo, fai bene a ricordare neanche nel 2009-2010 noi arrivavamo a 1,2 miliardi di ore, qui siamo arrivati a 3, sì, siamo a 3 volte, anche 3 volte, e questo per avere una misura della crisi. E ci sono dei settori poi come il terziario, ecco, pensate al turismo, pensate ai servizi, a certi settori, appunto, fieristico, che sono completamente ancora fermi, e quindi è evidente, e non hanno prospettive di ripresa a breve, quindi è evidente che per alcuni settori si continuerà a una fortissima richiesta di cassa in deroga Covid, certo, per i prossimi mesi, questo è sicuro, insomma. Mm-hmm. Sì, il mondo del commercio, dei servizi, in particolare i servizi legati al turismo, ristorazione, insomma tutti i servizi che adesso verranno ulteriormente coinvolti qui in Lombardia da stasera e domani in Campania e anche in Lazio, le 23 in Lombardia e Campania, le 24 in Lazio, insomma è chiaro che un danno soprattutto nella chiusura alle 23 vi sarà ulteriore per la ristorazione e in generale i servizi. Per quello vedremo poi appunto quale sarà l'accordo finale. Alcuni ascoltatori che sono partite IVA mi stanno chiedendo: ma per noi non c'è nulla. Allora, al momento, come ricordavamo anche prima, per le partite IVA sicuramente il governo non sta studiando i famosi 600.000 euro che sono arrivati quando sono arrivati a marzo-aprile. C'è ancora la possibilità di chiedere 30.000 euro con la garanzia e con i rimborsi dopo 2 anni, quelli garantiti al 100% dallo Stato, cioè chiedere 30.000 euro in banca di prestito. È chiaro che quello è lo strumento che noi vediamo più utilizzato dalle partite IVA, perché non hanno chiaramente dimensioni che invece hanno le piccole e medie imprese, che vanno sulle fasce, come ricordavamo prima, più alte di richiesta di finanziamento sulla liquidità. Grazie anche a Giorgio Pogliotti. Noi adesso andiamo sui mercati finanziari. Mercati finanziari che oggi non fanno notizia per le variazioni percentuali, nel senso che sono minime. Fanno notizia, se vogliamo parlare di mercati complessivamente, perché anche il nostro BTP a 30 anni è stato collocato, come ricordavamo, con ordini 10 volte superiori alle offerte, e tutte le emissioni obbligazionarie stanno andando molto, molto bene. È un BTP a 30 anni che ha un rendimento all'1,76%, se non ricordo male. Per quello che riguarda invece i mercati intesi come borse, allora segnalo Milano invariata, Parigi invariata, Francoforte invariata, Londra più 0,16, quindi anch'essa invariata, e Dow Jones invariato. Sì, poi ci sono dei titoli tipo Telecom Italia che perdono 2,70, B per il 2,5%, Interpump l'1,90, Unipol l'1,60%, e titoli come Pirelli che guadagna il 2,5%, Fiat Chrysler più 2,5% come Xor. Oggi è stata presentata la nuova 500 e il titolo si avvantaggia anche di questo. Però volevo chiedere e vorrei chiedere a Stefania Arcudi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Stefania. Buonasera a voi. Al di là dei casi singoli, mi sembrano delle borse talmente attendiste che non riescono neanche a prendere una direzione. Voglio dire, uno poteva immaginare che con quello che sta capitando in Francia, in Spagna, in Repubblica Ceca, in Gran Bretagna, in Germania e purtroppo anche in Italia, le borse iniziano a fare dei ragionamenti, oppure aspettarsi ancora iniziative più forti da parte per esempio dell'Unione Europea. In realtà mi sembra che nemmeno loro sappiano che direzione prendere. Sì, in effetti è proprio così, e soprattutto oggi le borse sono rimaste, gli investitori sono rimasti alla finestra, aspettano da un lato maggiori notizie sull'andamento della pandemia, ma anche sul fronte dei vaccini, che sappiamo essere un tema particolarmente caldo, dall'altro stanno a vedere se ci potranno essere ulteriori misure oltre a quelle già annunciate, il recovery fund eccetera, quindi oggi sono rimaste un po' in stallo, tanto più che anche dagli Stati Uniti non sono arrivate notizie particolarmente trainanti. Ci sono state alcune indicazioni positive sul lavoro, le richieste di sussidi sono state le migliori, insomma il calo minore dai dall'inizio della pandemia, però c'è lo stallo anche lì sul piano d'aiuti, quindi si preferisce la cautela. Vero è che nelle sedute precedenti in realtà gli investitori avevano preso posizione, ieri ad esempio i cali sono stati molto, molto più marcati, per cui diciamo che sì, come dicevi tu, in alcune giornate quando magari c'è una notizia un po' più di peso, la direzione è più precisa, in quelle come oggi dove non sono arrivati i dati macro particolarmente rilevanti, non ci sono notizie nuove sui vari temi aperti, per cui gli investitori stanno a guardare. Sì, possiamo poi aggiungere giornata non positiva per il settore moda complessivamente, perché tra i migliori e i peggiori ho visto anche Ferragamo meno 5,45% e anche Moncler ha chiuso in calo di quasi il 2%, però ripeto, non sono elementi tali da dire, da connotare la giornata, si va appunto sui singoli titoli. Visto che citavo i peggiori, dico anche il migliore, che è Mondo TV Suisse, più 10,60%. Allora, grazie a Stefania Arcudi, andiamo sul traffico e poi l'ultimo approfondimento che riguarda una vicenda che abbiamo seguito a lungo, mi riferisco alla vicenda Whirlpool. Purtroppo la conclusione, se si tratta di una conclusione, non è positiva, perché Whirlpool ha ribadito la volontà di chiudere lo stabilimento napoletano che al momento impiega 350 operai, che sono tornati al lavoro il 27 aprile, ma già sapevano che l'azienda aveva intenzione di chiudere, e questo nonostante le aperture tentate dal governo. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Dicevamo della crisi Whirlpool e del fatto che l'azienda oggi abbia ribadito che l'impianto che ha 350 dipendenti a Napoli chiuderà. Il ministro Provenzano l'ha definita una comunicazione accettabile, la chiusura è prevista per il 31 ottobre. Il vice ministro, la sottosegretaria al ministro del Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde ha chiarito che il governo aveva messo in campo strumenti unici, arrivando ad offrire un pacchetto di oltre 100 milioni alla multinazionale, tra taglio del costo del lavoro, fondo perduto, fondo per la crisi d'impresa, fiscalità di vantaggio e prestiti garantiti. E allora la domanda a Paolo Bricco del Sole 24 Ore. Buonasera Paolo. Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. La domanda è molto semplice: se il governo ha messo sul piatto e in campo strumenti che valgono 100 milioni di euro, perché l'azienda Whirlpool li ritiene, e lo ha ribadito anche il vicepresidente Luigi Lamorgio, ha detto gli strumenti sono stati unici, però dobbiamo chiudere lo stabilimento. Allora, perché se anche Luigi Lamorgia dice che che il governo gli ha messo strumenti unici, alla fine bisogna chiudere? Beh, bisogna chiudere perché è vero che gli strumenti finanziari messi in campo dal governo sono unici, ma di soldi, diciamo, veri, cash, la cifra era più bassa, erano intorno ai 18 milioni di euro, per uno stabilimento che è sempre stato negli ultimi anni considerato assolutamente fuori linea rispetto alla concorrenza internazionale. Lì si faceva delle buone lavatrici di buona qualità, che però costavano infinitamente di più rispetto a quelle di identica qualità, se non più alte, che vengono ormai prodotte in Cina. E quindi questo è il punto, prima di tutto. Seconda cosa, va ricordato che si va a una chiusura che è stata non con tradimento, non con violenza realizzata, annunciata all'improvviso dalla multinazionale americana. È stata dichiarata, era parte, come dire, di una dismissione, per citare appunto un classico della deindustrializzazione campana di Rea, si riferiva alla siderurgia, annunciata, dichiarata. È chiaro che si era preso del tempo ulteriore. A gennaio il governo aveva affidato a Invitalia la ricerca di un partner, o meglio di un investitore che subentrasse nell'impianto. A febbraio è arrivato il Covid e a quel punto tutto si è sciolto come un gelato, purtroppo. Adesso resta questo dramma di questi 370 addetti che rimangono nell'impianto e che andranno a perdere il lavoro entro il 31 dicembre. È una situazione, a mio avviso, industrialmente comprensibile. Ricordiamo che l'Italia ha perso la sfida sul bianco. Ancora negli anni '80 il bianco italiano competeva con il bianco tedesco, e questo non è più così. Il bianco tedesco è sopravvissuto alla globalizzazione soltanto perché ha delocalizzato in Cecoslovacchia, in Boemia, sì, ancora più vicino in Europa, nei paesi dell'Europa dell'Est, e anche in Cina, perché dobbiamo ricordarlo che l'industria tedesca ha assolutamente un rapporto siamese, da gemello siamese, con l'industria cinese, dove hanno delocalizzato alla il settore del bianco. Lo dico agli ascoltatori, quello che riguarda il mondo degli elettrodomestici. Pensate, sì, che sì, fino agli anni 90 quasi metà, il 45% degli elettrodomestici europei veniva prodotto in Italia. Nel 2002 sì, eravamo scesi a 30 milioni di pezzi, ora siamo a 10 milioni, cioè meno del 10% di tutto quello che viene prodotto in Europa. Basta, in un settore che comunque ancora... da noi vale ancora 36.000, ecco, addetti, sì. Prego Paolo. Esatto, ecco, basta ancora ricordare che negli anni 80 le lavatrici, i frigoriferi, il bianco italiano aveva una potenza industriale in Italia pari all'industria dell'auto, quando l'auto era la Fiat, quando l'auto italiana era l'Alfa Romeo. Quindi siamo stati una grande potenza industriale in quel settore. Abbiamo perso la sfida con la Cina. Non avevamo, a differenza dell'industria tedesca, lo sfogatoio, il polmone dell'industria dei paesi dell'est a lingua tedesca o comunque a condizionamento tedesco molto forte, dove loro hanno potuto delocalizzare, oltre naturalmente la Cina. Molte famiglie imprenditoriali si sono ritirate, i Merloni, in parte anche i Fumagalli, cioè i grandi nomi del capitalismo italiano non ci sono più. E oggi, come loro sono usciti, purtroppo, è triste dirlo, lo si dice con grande rammarico, senza alcuna forma di cinismo, escono anche i lavoratori. Sì, l'unica cosa è vedere se, però mi sembra appunto che tu ci abbia già ricordato come complice anche la crisi Covid, si sia bloccato ogni processo di cercare qualcuno che subentrasse. C'erano state delle ipotesi, per concludere Paolo, ma appunto al momento in Vitalia, quindi il commissario Arcuri non è riuscito a trovare nessuna, dimmelo in maniera molto secca, nessuna ipotesi alternativa di subentro? Nessuna ipotesi. Prima dell'arrivo del Covid c'era stata un'ipotesi su una Newco svizzera con capitali, sì, italiani, con management italiano, ma anche quello si arenò, non soltanto per l'ostilità del sindacato che non ci vedeva chiaro, ma anche perché poi a un certo punto davvero questa crisi del Covid ha cambiato tutto. Se è possibile fare una comparazione, come si può pensare adesso di trovare un futuro per un impianto fuori mercato come quello di Napoli, e in generale per il bianco italiano più a bassa gamma, quando ad esempio quest'oggi la BMW ha annunciato che un suo modello di punta come la Mini, il nuovo modello che doveva andare in produzione l'anno prossimo, viene rinviato al 2024-2025. Chiaro. Perfino la manifattura europea, tedesca, di alto valore aggiunto, rimanda. E quindi invece su quella bassa come questa davvero non ci resta che piangere. Allora, grazie per questa iniezione di ottimismo in finale di programma. Grazie a Paolo Bricco. No, la situazione purtroppo è serissima per i 350 lavoratori della Whirlpool. E noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Comunque, da Sebastiano Brisoni, le auguro di una buona serata. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.